La nostra è una piccola azienda fatta di 9 persone ad oggi. Sono 9 persone altamente specializzate che hanno conoscenza del mondo della logistica, del mondo industriale, che hanno conoscenza del mondo dell'elettrodomestico e quindi hanno la possibilità di governare dei sistemi stando sul percorso critico. È emerso qui l'importanza del fare sistema per mettersi e posizionarsi sul mercato globale. La vostra ricetta da questo punto di vista? La nostra ricetta è piuttosto semplice. Innanzitutto vanno valorizzate le idee e va valorizzato l'uomo. L'idea deve essere sostenuta attraverso le energie dell'uomo e la capacità delle persone, delle risorse di fare rete, in maniera particolare rete lunghe, altrimenti il mercato globale non lo si può affrontare. E in questo senso noi abbiamo ottenuto diversi contratti con delle strutture multinazionali di livello globale che commercializzano i loro prodotti e li distribuiscono a livello globale grazie al fatto che siamo stati in grado di garantire un'interazione al giusto livello di qualità per cui loro si aspettavano un riscontro. Quindi la carta vincente è la qualità del prodotto o del servizio che voi offrite? È la qualità del prodotto e del servizio, sì. Naturalmente deve garantire il fatto di tenere sotto controllo tutto ciò che deve tenere sotto controllo e in maniera particolare i costi all'interno del sistema qualità sono quelli che vengono considerati i più pertinenti per quanto riguarda una decisione a procedere verso quella direzione. Spesso e volentieri le multinazionali, ma quasi tutti noi, teniamo a considerare che qualità è anche sinonimo di prezzo basso e ultimamente, negli ultimi 3-4 anni, si è portato alla ribalta anche il concetto della sostenibilità. Quindi tutti, dalle multinazionali al consumatore, si aspettano qualità, prezzi bassi e sostenibilità. Noi ci siamo mossi esattamente in questa direzione, dando la possibilità di noleggiare i nostri imballaggi a costi che sono inferiori al costo di acquisto dell'imballaggio a perdere, fatto generalmente in polistirolo e cartone. Cos'altro dire? Ed è una politica questa che però riesce a risultare efficace anche in un momento congiunturale che non è assolutamente dei migliori. La politica in questo caso risulta efficace grazie al nostro stretto controllo dei costi. Non dimentichiamoci del fatto che noi siamo in grado, attraverso la nostra rete di reverse logistic, di riutilizzare questi imballaggi 20 volte, dopo 20 volte li tritiamo e dal materiale di risulta andiamo a ristampare dei pezzi nuovi. Quindi abbiamo pagato la materia prima la prima volta e nell'ambito della vita tecnica del prodotto andiamo a riutilizzare sempre quella materia prima, okay, distribuendo gli effetti economici derivanti dagli investimenti nel tempo. E quindi questo ci consente di calmierare quello che è l'aumento dei costi legati all'aumento del costo del petrolio.